La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla storia dell'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, nato 80 anni fa, nel 1933, per volere di Benito Mussolini e liquidato nel 2002. Ospite ai nostri microfoni Daniela Felisini, docente di storia economica alla Facoltà di Lettere di Tor Vergata. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato ai grandi progetti ingegneristici della storia dell'uomo, dalle piramidi ai grattacieli metropolitani. La parola adesso va a Dino Pesole. La storia dell'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, è parte integrante della politica economica italiana almeno dagli anni 30 in poi, quando venne fondato, fino alla privatizzazione dell'istituto decisa nel 2002. Ripercorrerne la storia a 80 anni dalla nascita è dunque un viaggio di grande interesse all'interno delle profonde trasformazioni che hanno accompagnato il nostro paese dal secondo dopoguerra fino al miracolo economico della fine degli anni 50, e ancora dal rinnovamento delle relazioni industriali alla nazionalizzazione dell'industria elettrica e poi seguendo nel tempo il rapporto con il sistema bancario fino all'affermarsi negli ultimi anni della vita dell'IRI del predominio dei partiti nella stagione delle cosiddette partecipazioni statali. È da pochi giorni in libreria il secondo volume della storia dell'IRI pubblicato dalla Terza, che è dedicato agli anni del miracolo economico, curato da Franco Amatori, e vi sono contenuti, come vedremo tra breve, spunti di grande interesse. L'Istituto per la Ricostruzione Industriale, IRI, nasce nel 1933 per volere di Mussolini e su progetto di Alberto Beneduce, con l'intento di evitare il fallimento delle principali banche e imprese italiane e con esse il crollo dell'economia, già provata dalla crisi mondiale esplosa nel 1929. Degli anni che vanno dal 1950 al 1970, quelli del boom economico e delle maggiori trasformazioni della società italiana, con una crescita del reddito del 6% e l'eccezionale affermazione dell'industria che diventa un fenomeno irreversibile, l'IRI è protagonista di primo piano. Soprattutto nel settore siderurgico, dove con il piano Sinigaglia la produzione aumenta di 3 volte, consentendo all'Italia di passare dal 9° al 6° posto nel mondo. La presenza del gruppo si estende a diversi comparti produttivi: le infrastrutture di trasporto, le telecomunicazioni, la progettazione e la fabbricazione di prodotti di successo come la Giulietta, i programmi di industrializzazione del Mezzogiorno. Da uno dei saggi contenuti nel libro, in particolare quello di Andrea Colli, apprendiamo che nel 1952 l'IRI incide per l'80% della produzione cantieristica, il 57% nella telefonia, il 45% nella siderurgia, e poi a seguire presenze importanti anche in diversi comparti della meccanica, dal 20 al 45%, poi delle intermediazioni bancarie, l'industria elettrica, i trasporti marittimi. Insomma, un gigante che nel 1950 conta 200.000 dipendenti, che poi nel 70 salgono a 350.000. Un ruolo di primissimo piano, dunque, in quegli anni decisivi per lo sviluppo economico del nostro paese. Non era però questa l'immagine che l'istituto aveva per una parte non secondaria del mondo degli affari e della classe politica. L'IRI rappresenta la più grande immoralità che ci sia, perché trova il denaro quando vuole e al prezzo che vuole. Io sono dell'avviso che bisogna al più presto seguire un indirizzo completamente opposto a quello dell'IRI. Così si esprimeva il 4 aprile 1946, di fronte alla Commissione Economica dell'Assemblea Costituente, l'autorevole senatore Alberto Frassati, già liberale giolittiano, amministratore delegato dell'Italgas. Nella stessa sede un uomo di robusto realismo come il presidente di Confindustria, Angelo Costa, di sicuro non uno statalista, chiude la disputa sull'esistenza dell'IRI. Dal punto di vista economico, se si potesse pensare che l'industria privata fosse in grado di assorbire l'IRI, potremmo dire: liquidiamo l'IRI e facciamolo assorbire dai privati, ma noi oggi non possiamo immaginare un'industria privata che sia in grado, ad esempio, di prendere l'ansaldo. Diamo il benvenuto e il bentornato alla professoressa Daniela Felisini, che è docente di storia economica a Tor Vergata, autrice del saggio contenuto nel volume dedicato alle biografie del gruppo dirigente dell'IRI dal 1945 al 1970. Buonasera, professoressa. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Allora, la scelta di dedicare l'attenzione sulle biografie, a cosa si deve? La scelta è stata, diciamo, una scelta anche complessa, perché si trattava di ricostruire in modo documentato, critico, i percorsi biografici professionali, ma anche i percorsi formativi di un largo numero di uomini, un numero che supera i 50, in modo da costruire attraverso i profili dei singoli il profilo di un gruppo dirigente, comprenderne i valori, le culture di impresa, le visioni che li hanno ispirati e li hanno indotti a fare le scelte che poi hanno determinato la storia delle loro imprese. Ecco, nel suo saggio si parla dell'IRI come di un istituto che ha nel tempo attivato un reclutamento di qualità. In che senso? Ecco, come è stato già detto nell'introduzione, l'istituto all'inizio diretto da un piccolissimo gruppo dirigente in cui c'erano Alberto Beneduce, il fondatore e ideatore, ma anche Donato Menichella, il futuro governatore della Banca d'Italia, si trova nella necessità immediata, vista l'enorme patrimonio industriale che si trova a gestire, di affidarlo, come diceva Beneduce con una felice sintesi, alle mani adatte. Dunque, da un lato mettono alla prova e selezionano giovani promettenti, ad esempio Menichella assunse in questo modo Pasquale Saraceno, una delle figure più note della storia dell'IRI, ha lavorato all'IRI per oltre 40 anni. Sì. Dall'altro ci si rivolse a uomini di capacità tecniche e gestionali già accertate o che avevano già lavorato nel settore, ad esempio Agostino Rocca, l'ingegnere della Dalmine, Oscar Sinigaglia, certo, l'autore del famoso piano. L'autore del famoso piano che lui propone già negli anni 30 e che viene attuato solo nel secondo dopoguerra grazie ai fondi del piano Marshall. Oppure si rivolgono anche a figure del mondo accademico, come sì. Ugo Bordoni, un docente universitario studioso di fama internazionale nel campo della fisica tecnica, a cui Beneduce affida la presidenza della STET, cioè la Società Finanziaria per le Telecomunicazioni. Sì. Proprio poi, questo nome, certo, ci aiuta a mettere a fuoco due caratteri fondanti comuni a questo, diciamo, gruppo dirigente dell'IRI per i primi tre decenni di vita dell'istituto. Da un lato, appunto, la notevole riconosciuta competenza tecnica, dall'altro un forte sentimento nazionale. Qualcuno li ha definiti dei nazionalisti, la parola ha, diciamo, a volte evoca dei significati negativi, ma certamente un forte senso di interesse collettivo. Mm-hmm. Che poi in quegli anni era fondamentale nella ricostruzione del tessuto produttivo italiano dopo i disastri della guerra. Certo, tant'è vero che il gruppo dirigente dell'IRI, notevolmente accresciuto nei suoi numeri, passa, diciamo, supera la difficile transizione del dopoguerra, e inserisce l'IRI in quello che è il grande dibattito sul capitalismo manageriale di quegli anni. Siamo abituati a pensare all'IRI come un'esperienza in fondo fallimentare, no? Che, sì, diciamo, ma per molti decenni l'IRI è stata invece pienamente coerente con tutte le prassi di capitalismo manageriale che si svolgevano negli Stati Uniti, in Germania e addirittura negli anni 60, studiata e apprezzata come modello di successo dagli inglesi, dagli svedesi, e questo era dovuto anche alla straordinaria coerenza culturale e competenza tecnica riconosciuta del suo management. Sì, diciamo che l'immagine dell'IRI negli anni Gli ultimi anni di vita dell'istituto è stata un po' compromessa dal fatto che poi c'è stata, come dire, l'invadenza dei partiti e dunque si è un po' snaturata la funzione stessa. Però se noi guardiamo anche a questo libro si capisce perfettamente come ad esempio questa classe dirigente, questi nomi di cui lei si occupa nel suo saggio, abbiano ad esempio accompagnato lo sviluppo italiano nel cosiddetto miracolo economico. Certo, nella grande stagione dell'IRI, questo gruppo dirigente che era imbevuto di una cultura dirigista, ma che aveva saputo anche cogliere tutte le opportunità e le novità del nuovo contesto del secondo dopoguerra, la liberalizzazione degli scambi, l'integrazione europea, le innovazioni tecnologiche e organizzative provenienti dagli Stati Uniti, questo gruppo, dicevo, è alla guida di un processo di profonda modernizzazione infrastrutturale. Il nome di Oscar Sinigaglia l'abbiamo già fatto, ma non possiamo dimenticare l'uomo delle autostrade, Fedele Cova, che tra l'altro, diciamo, mette in atto delle strategie anche di comunicazione per fare appello ai capitali sul mercato e creare consenso intorno alla costruzione delle autostrade, molto innovative per l'epoca. Oppure per la telefonia il nome di Guglielmo Rais Romoli. Non ci dimentichiamo che l'Italia è stato il primo paese in Europa ad avere la teleselezione diretta, dunque a poter telefonare da una città all'altra senza passare per la famosa signorina del centralino. Sì, quindi nomi che hanno accompagnato lo sviluppo italiano e che dunque sono nella storia del nostro paese. Sono nella storia del nostro paese e anche nella storia di alcune, vogliamo chiamarle occasioni perdute, diciamo strade che l'IRI aveva imboccato ma che poi non siamo riusciti a portare a compimento con successo, come quelle dei settori della terza rivoluzione industriale. Nell'elettronica, oltre al nome della grande azienda privata di Olivetti, non si possono non nominare la Selenia di Carlo Calosi, tra l'altro un personaggio, un ingegnere dell'IRI con una vicenda personale molto avventurosa, oppure l'Italsiel, che è la prima software house italiana che fu voluta fortemente da Pasquale Saraceno. Bene, buonasera, grazie molte per queste precisazioni e buona serata ancora alla professoressa Felisini. Grazie a voi, a risentirci. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato ai grandi progetti ingegneristici che hanno dato vita alle prime grandi città, dagli antichi acquedotti romani fino ai moderni grattacieli delle odierne metropoli. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda martedì 16 aprile alle 14:15 su History Channel. L'antica Roma soffre di una scarsità d'acqua catastrofica. I cittadini si ribellano. L'impopolare imperatore Claudio deve correre ai ripari. Ma la sorgente d'acqua utilizzabile più vicina è a 74 chilometri. Costruire una struttura che possa portare l'acqua per una simile distanza sembra impossibile nel mondo antico. Se non fosse per un elemento. Roma è circondata da vulcani che eruttano ceneri con proprietà uniche. Quando la cenere vulcanica viene mischiata con l'acqua, si verifica una reazione chimica. Ne risulta un materiale da costruzione eccezionale, il calcestruzzo, il primo esempio di una pietra artificiale che si può versare, stendere e modellare in qualsiasi forma. James Makes, redattore capo della rivista Popular Mechanics. È come se non ci fossero pietre sufficienti a terra, per cui i romani devono trovare il modo di inventare pietre nuove e fabbricarle della forma esatta che vogliono. Usando il calcestruzzo, gli ingegneri di Claudio sono in grado di costruire un immenso acquedotto. Una struttura ambiziosa, mai realizzata fino ad allora. È in grado di trasportare 189 milioni di litri d'acqua al giorno. Una quantità incredibile, più che sufficiente per placare la sete di Roma. Per Claudio è un trionfo politico. La straordinaria struttura viene celebrata nel mondo antico e diventa conosciuta come Acque Claudie, prendendo il nome dall'imperatore stesso. Regala così al mondo un nuovo eccezionale materiale da costruzione, il calcestruzzo. James Makes, redattore capo della rivista Popular Mechanics. Si parla dell'età del bronzo e dell'età del ferro, ma per molti versi dal tempo dei Romani viviamo nell'età del calcestruzzo. Una gran parte del mondo costruito di oggi è fatta di calcestruzzo. Il calcestruzzo, scoperto dai Romani usando un prodotto dei vulcani distruttori, diventa la base dei più grandi progetti costruttivi dell'uomo. E apre la strada a un monumento spettacolare dell'età moderna. New York, l'Empire State Building. Una celebrazione degli Stati Uniti d'America come superpotenza del XX secolo. La gara a chi realizza l'edificio più alto viene vinta utilizzando un rapido metodo di costruzione con il calcestruzzo rinforzato da una struttura d'acciaio. Occorrono solo 14 mesi per completarlo. Il grattacielo emblema svetta con più di 100 piani. Nella costruzione viene utilizzata la sconvolgente quantità di circa 47.000 metri cubi di calcestruzzo e 57.000 tonnellate di acciaio. Con i suoi 443 metri, diventa l'edificio più alto del mondo mai costruito dall'uomo. 124 metri più alto del suo diretto rivale, il Chrysler Building. L'Empire State mantiene il titolo per i successivi 40 anni. Qualunque sia la commemorazione, il nostro desiderio innato di costruire monumenti sempre più grandi e più belli ci sprona a sognare di costruire l'impossibile. Nel mondo antico, il nostro bisogno di lasciare un segno sul pianeta è spinto da motivi religiosi e politici. Nel Medioevo è il denaro a stimolare un miracolo di ingegneria. Venezia. Una città fondata dai rifugiati romani sfuggiti agli attacchi dei barbari su 118 isolotti di fango in una palude remota. George Wunderlich, Museo Nazionale della Medicina nella Guerra Civile Americana. Mentre l'impero romano crolla, assistiamo allo sviluppo di una nuova città, Venezia. Gli abitanti dell'impero romano diretti a nord vanno a Venezia e utilizzano una vecchia tecnica romana per costruire questa nuova e meravigliosa città. Unendo i principi costruttivi romani con le competenze tecniche locali, Venezia diventa una splendida testimonianza dell'ingegnosità umana. Una città che sembra galleggiare sull'acqua. Gli edifici sono sostenuti da pali conficcati profondamente nel fango, su cui vengono stese enormi piattaforme di calcestruzzo. George Wunderlich. I veneziani utilizzano la tecnica romana del calcestruzzo per costruire una città che dura ancora oggi. Venezia, città costruita sul mare e senza risorse naturali proprie, dipende dal commercio per ogni cosa. E quindi i veneziani diventano i mercanti più abili del mondo. La città diventa la patria delle banche, con una ricchezza straordinaria e 3.000 navi da guerra a proteggerla. Venezia diventa un fantastico monumento medievale al denaro. Un simbolo duraturo della capacità dell'uomo di costruire, nonostante gli ostacoli più difficili. Quando la rovina economica minaccia il mondo, un meraviglioso simbolo di speranza rende fiera un'intera nazione. La Grande Depressione stringe in una morsa il mondo occidentale. L'economia americana ha toccato il fondo. C'è bisogno di costruire in grande per creare posti di lavoro. Domare il selvaggio fiume Colorado è un'impresa monumentale di cui gli Stati Uniti possono andare fieri. Una delle meraviglie del mondo industrializzato. La diga di Hoover, larga quasi 400 metri, destinata a essere la più grande struttura di calcestruzzo del mondo. Ma gli ingegneri incontrano un problema singolare. George Wunderlich, Museo Nazionale della Medicina nella Guerra Civile Americana. La diga di Hoover contiene così tanto calcestruzzo che se si volesse lasciarla asciugare da sola ci vorrebbero più di 100 anni. Ma allora come si fanno a solidificare più di 6 milioni e mezzo di tonnellate di calcestruzzo liquido? Resistente e flessibile, l'acciaio come materiale di supporto è la scelta ovvia. Ma qui verrà usato in maniera brillante per risolvere il problema della lentezza di solidificazione del calcestruzzo. George Wunderlich. Gli ingegneri trovano un sistema per far correre dei tubi all'interno della struttura in modo che l'acqua fredda del Colorado possa asciugarla nel giro di qualche mese. I tubi da 2,5 centimetri di diametro portano l'acqua fredda del fiume Colorado nel cuore della diga di Hoover. Il calcestruzzo genera calore e si espande quando viene steso, ma l'acqua nei tubi lo raffredda, permettendogli di indurirsi e ritirarsi. I tubi sono lì ancora oggi e continuano a indurire il cuore della diga. Una soluzione brillante a un problema provocato dalle dimensioni gigantesche e dall'ambizione del sogno costruttivo di una nazione. La diga di Hoover viene inaugurata nel 1936, 2 anni prima del previsto. Fornisce elettricità agli stati di California, Arizona e Nevada. Il suo bacino rifornisce d'acqua 8 milioni di persone. Questo fulgido simbolo di speranza contribuisce a portare l'America fuori dalla disperazione della Grande Depressione verso un nuovo periodo di ottimismo e prosperità. Questo incredibile tributo alla determinazione dell'uomo è un classico esempio del nostro desiderio di costruire l'impossibile. E porta alla realizzazione di uno dei più dispendiosi progetti costruttivi di tutti i tempi. Come Venezia 700 anni prima, Las Vegas è la celebrazione scintillante della ricchezza e della prosperità. Fin dagli albori dell'umanità abbiamo lasciato un segno della nostra presenza nel mondo, costruendo strutture eccessive che raggiungono il cielo. Ora, nel XXI secolo, costruiamo arrivando sempre più in alto, perché possiamo. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Mankind, le 12 chiavi del successo, la nascita delle città. Regia di Youth Ballantyne, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione EITN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda martedì 16 aprile alle 14:15 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.